24, qualche cosa più di 24 ampere. Adesso voglio provare a metterlo al massimo. Vediamo un pochettino. Provo un attimo in banda laterale. Un secondo solo ancora. Dopo controllare. Sì, ma già va bene questo qua. Allora se mi metto buono. Sì, capacità marcia si sente però che cosa. Cosa? In sesta marcia si sente che sta dando tanto. Aspetta. Guarda, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso è al massimo. Bene, sta andando, guarda. Aspetta un attimo che arrivano una cosa. Si sente appena appena Saturino, però ci sta, dai. Già andava, almeno un pochettino te lo porta su, sì, non è che puoi dare assai con questa antenna, no? Quanto c'ha di resistenza? Ha fatto la prova Gianni? Sì. Porca miseria, era un cucina, avrei voluto vedere il segnale. Sì, non ve ne era più, no? A fondo scala era, però andava bene, cavolo. Sulla Ghimazzar quanto tiene? Un bel. Per lo meno 2 kW, non mi ricordo i dati, comunque un bel, come una mantova presumo. Questo è un giocattolo, l'Energy tiene 500 watt picco in banda laterale, boh. Continui sarà la metà, anche un terzo, continui, 150, 200, non di più, eh. Come che ti sei sbagliando, forse di meno, ma che basta. No, io sto dicendo la mia c'ha 500 watt picco, quindi continui 150-200, io non mi fiderei a darne di più. La Grandmaster ci avrà 1, 2, 3 kW, adesso guardo. Mi pare che sia 500. Solo? No, pare strano, aspetta guardo. Mi c'ho la scheda quanto? Oh balle. Sì, 500 watt continui, quindi in banda laterale vuol dire che ne tiene almeno il doppio. Caspita, credevo di più, forse perché è fatta con quel cavo lì, boh. Comunque mica sono un bel 500 watt continui, un bel. Cioè in AM sarebbero, in AM e FM. Non so, ma già andava bene. Comunque non ho niente da dire. Ma Gianni è sparito? No, non so cosa è combinando. Sono qua, ho attaccato l'alimentatore, Marco, e con l'alimentatore che era 30 ampere va benissimo. Ma sta assorbendo 24, 25, 26. Ma ce l'hai ancora con l'alimentatore? Quale? Quello da 30, ce l'hai tuttora? Sì, che adesso lo sto usando adesso. No, era per vedere se da quanto arrivavi. Allora, c'è lo strumento, praticamente sopra ci sono i volts e sotto gli ampere. A cosa dare retta non usarci? Ah no, aspetta, volts e ampere, sì, aspetta. Devo vedere quanti ampere ci sono. Ora. Sì, ma tu adesso sei 920, non sei a manettone. No, ero staccato. Guarda, adesso sono attaccato. Guarda, lo guardo. Ora sono attaccato, guarda. Allora, mi devi dire quanti watt ti segna il wattmetro. Prova, aspetta. Sì, noto una certa saturazione, un pochino. Vabbè, comunque, vai, dimmi watt. Aspetta. Un kilowatt. Arriva più forte, Gianni o io? adesso siete pari, l'ho messo a 9, l'ho tenuto a 9 da attaccato, siete pari, 9 identico tra i due. Ora Marco, sono 30, va. No, ma già 30, ma se sei in scala 1000 saranno 300. Va. Vabbè, 300, va, già mi hai capito, 300, sì. Ok. Fammi sentire la modulazione, modula un po', non parlare troppo vicino magari. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Premi ancora. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ehi, adesso se puoi, quello lo spegni lineare e mi fai vedere una potenza normale che può essere 4 o 5 watt per capire di quanto incrementa. Se poi metti 4 watt, se poi ne metti 5, così, nudo e crudo. Oh, faccio pure io a 4 watt. Avete parlato in due, aspetta ancora, vai Gianni. Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Marco. Adesso quanti ne stai usando? 5. Allora, così sì, Santiago 6, nota bene, da attaccato ti ho messo a 9 per comodità di riferimento, adesso sei 6, quindi sei da liscio 6, attaccato 9, quindi c'hai ben 3 Santiaghi di incremento. Adesso si vede l'incremento, mentre appena l'avevi comprato, ti ricordi che ti dicevo, già sei a malapena da 2 Santiago in più, a malapena, dovrebbero essere almeno 3, e infatti adesso ci sei, allora era un problema di alimentazione. E la radio com'è? E vabbè, la radio com'è, ma adesso sei staccato? Sì, adesso sì. E la radio è una radio normale da staccato. No, dico, l'attaccato com'è, così, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appena appena di tipo compressa o satura, non lo so definire, ma appena, mi, non... Oddio, non... è capibilissima, mi, tanto cosa ne dici? Niente, Antonio non dice niente. Comunque, buono, 3 Santiaghi di incremento. Sono 15 dB, non so se mi spiego. No, stavo parlando un attimino, dimmi. Prova avanti a vedere, attaccare per vedere se passi. Che tu sei anche più vicino, eh. Beh, prova a vedere Gianni, a me passa, a me non passa, non passa. Un casino, non passa né l'uno né l'altro. Antonio quanto ne ha? 100? Ma io 100 watt. Eia, Gianni di più, però è più lontano, molto più lontano Gianni. E alla fine non passa né l'uno né l'altro, dai, è equivalente. Brava, brava. Va bene, dai, interessante. Abbiamo risolto. Non mi piace questo alimentatore, è brutto. Non mi piace. Di nuovo, nuovo. Possiamo provare 4 watt già. Io posso provare anche con 2 watt. Ma a casa non avete? Sì, ciao Lu. Noi siamo a casa, e tu dici? In giro già. Allora, provo a provare 4 watt come eravamo poco fa, vedere quanto è la differenza tra me e te. Andiamo e andiamo, che altro? Aio, ma tu ti vai giù da ammazzare. Tu c'hai il B30, Claudio, cosa vuoi fare? Già arrego, già arrego pure i nonni. Sarà battaglia aperta. Certo che conmigo hai già perso in pazienza. Con un latte puoi giocare conmigo. Dimmi Antonello. Allora, dopo mi sembra allora che fu. Dopo la mezzanotte. Lasciali pompare, lascia. Ciao Lucariello. Ciao Cla, allora, una alla volta, prima parte Claudio, in fila, poi parte Antonio Bombolo, Antonio Bombolo parte Gianni, poi da Gianni a Pomponio, anzi facciamo parte da Pomponio, Claudio, Antonio Bombolo e Gianni, ok, a salutare però a Piero Drago, pronti siete, aspetta dai, parti tu Pompo, a salutare a Piero Drago, vai, perché altro quando vai in pensione si piazza tutto, pronto sì, vai. E ora, ciao Pie, barrato, già beccato un ratto, così ti ho già apparecchiato quel che ti serve, non ti preoccupare, almeno punti. E un altro, qua, riprendi, salta Piero Drago, vai. Ciao Piero, non vedo l'ora che arrivi in frequenza, così ti ammazzo subito e ti vendi di nuovo tutto, ciao. Però se lo conosci tu a Piero Drago, boh, te lo ricordi? Già me lo ricordo io, sì. Due schicchiate prendeva da Claudio Sparviero. No, Antonio Bombo lo sto dicendo. Me lo ricordo un po' di anni fa, me lo ricordo vagamente. Salutoni Piero, salutoni Antonio Bombo da Sassari. Avanti Gianni. Ehi, ciao Piero, guarda che ci facciamo un brudino di Marco. Te l'ho detto che c'è Pomponio, Claudio, vabbè, tanto male tu non te lo ricordi perché, guarda, ti parlo, forse, quanti anni è che manca, Claudio? Boh, più di 20 anni, vero? Se ho 20 anni, se ho 30, chi manca? I tempi di Marco 131, Giovanni Modigliani, tutta la banda del Gobbo, eravamo, beh, sono 20 anni. Fa bianco per me, devo farmi la doccia. Comunque, Claudio, ho cambiato l'alimentatore adesso. Vai un po' meglio, vedi, molto più chiara la modulazione, percepibile la saturazione. Guarda, adesso la metto in quarta marcia, no, in quinta marcia, guarda per se va meglio. Va bene, lascialo, va benissimo. Però non mi piace questo alimentatore. Brutti sono già, brutti io, il mio l'ho nascosto, ma giusto per il B300 che non uso mai, mi... ho ricollegato questo che è una cosa bella da vedere, c'è il suo coso a 24 eccetera. Luca, dove sei? Giù a casa tua? Luca. Maico. Britella. Questo è un suo attacco già, questo 574 con questo abbinamento è uno spettacolo, una ricezione da favola, veramente un bel baracchino, veramente un bel baracchino, bello, bello, bello, ottima ricezione, ottima trasmissione. Ora, ora. Stai aumentando? Mo è al massimo. Al massimo è col power basso, adesso è col power al massimo, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ti satura la modulazione, te la porta via un bel. E così va usato, va usato con due watt. 2 watt e mezzo, non di più, 3 watt. Vuoi arriva Giuseppe Bagliola Gianna al bar, se me lo chiedo se mi dà qualcosa, quello che c'avevo io, se me lo dà e ecco come di fretta, cambio capo di nuovo e facciamo il dono dell'Ave Maria. Cazzo, stavo per incendiare la casa, ragazzi, quella la robaetta c'era un buco, quando sono mancato mi sento co, era consumata tutta l'acqua della carne, cazzo, si stava arrostendo. Gianni, quando c'hai i fornelli accesi lascia il baracchino. Ehi, facciamo da un po' di acqua, dove va? Perché l'ho scongelato così con l'acqua calda, capito? Quindi doveva bollire ancora. Vabbè, si è consumato a su. Vabbè, a fuoco lento, guarda dove vi metti. Fai Antonè, porta amplificatori, mi, questo è il più piccolo. 600, questo è il più piccolo. E lì c'è una buffoneggia che è lo stato solido, anzi 700 modulati, se non basta già c'è l'altro anche dentro l'armadio, quello da 2 però, da 2 kW, non da 1. Togliete, dai che facciamo nuovamente il triangolo delle Bermuda. Io ce la faccio a farlo con il 54, se scherzato, così faccio la fine dell'altro. Cambio capo, mi ha dato 4 mesi fa, nuovo, lo usavo del petrolio e basta. Adesso lui mi chiede, se me lo dà, me lo faccio portare e me la cancia qua a casa. Nel mio capatretto. Infatti l'ho regolato io, e capo figlio c'è tu, l'ha regolato lui, c'è te ricordato me, mi hai regolato tu, ce l'ho ancora anch'io. E tu qua l'hai detto, la metà, e tu non lo ricordo più. Dice il mio capatè mi ha detto. Capatretto, non mi ricordo più. Dice ce l'ho ancora conservato, mi ha detto. Vabbè, io ho detto la verità, ho detto, come facevo niente, ho detto, ma adesso glielo chiedo un mio. Se me lo va, più a piatto. Cambio il capo, metto via il giro di 113 e così lo uso, perché se no antenna, cioè, spreccata più che altro. Bisogna fare come prima, una volta la faccio sentire che salgo la violistano, l'uolo, quello che è, così ci divertiamo un pochettino. Ti avevo una brutta notizia però, Manuel non sente nessuno, solo a me, neanche a Roberto Quadrato 100 watt sente, a nessuno. Che c'entra Quadrato? A me già mi sente, non ti preoccupare Manuel, già ti dico che mi sentiva a capo, quell'altro sentiva te, a me, solo in due, in mano alla clave e fai me, basta, se ti ricordi bene. Buduzzo, se ti ricordi bene. Ora sto parlando di Oristano, non Buduzzo. A Oristano non ci arriva neanche Roberto Quadrato. Non lo sente per niente. Se vuoi mi ci metto un minuto, le mando un messaggio, lo faccio entrare. Io gli arrivo a Santiago 8, a Oristano, con 20 watt, non uscino. Se lo chiamo adesso e e lo faccio entrare, minimo gli arrivo più di 9. Io lo sento segnare uno, in realtà. Lui si è stato non mi sente, fregatene, lui te lo chiavi. Aspetta quando attacco quello grande, lineare, facciamo la prova con Buduzzo. Cioè come facciamo con Buduzzo, ti ricordi? Che Buduzzo per dire, in AM non mi sentiva. Invece con che Buduzzo sì, se ti ricordi bene. Con 80 e con 140. Antonio, diversa apertura ci abbiamo, no? C'è Cristo da qua, no? Tanto io ti stavo fischiando sul 10 ed è entrato l'imamo da Ortieri, ma ha detto ma entra già fa attendere. Ha detto niente, mi faccio due prove. Arrivava una schioppettata, lui arrivava a 5-6. Però Giovanni non lo sentivo, quello che stavo parlando con lui, che è il fratello di Nino 1. Non lo sentivo. Mentre lui sì, arrivava benissimo, alla grande. Buduzzo per me è come modulare con Sasse, vai già. Ehi, adesso voglio fare un'altra prova, voglio vedere se con l'altra parte è Sattler. Questo cos'è, il Galaxy? Ehi, il Galaxy con 2 watt. Va bene, ricordati, 2 watt col Galaxy, ottimo, 9 più 30, radio 5. Perché Antonio, molto ti sto arrivando. Se entrati a Roberto non mi sentiva, toccava attenuarmi. Vabbè. Sto facendo trovare stasera, la verità, se mi cazzo. L'ho sentito, sono andato al canale parlando, tu stavo facendo le prove qui. Su 10 ho sentito da fanculo, sentivo tutti, che dire, da 9.20 in questo apparato qua a 9.10, perché sta più provato più che altro. No, io in verità ero sul 40 per i fatti miei, e poi sono venuti tutti lì, io sto facendo due tarature ad una radio mia, e sono venuti tutti lì, e quindi sono rimasto nel canale 40, non so neanche chi c'era nel 10. Esatto, 100 su 40, bravo, ci sei. È vero. Mi figura che tu. Al solito forse parla con due persone, sono. Vabbè, non so dire chi era, comunque sia. Ci parla tanto insieme a te, insieme a loro. Poi dopodiché tu hai chiuso, sei andato nel cane e sono passato su 10. Questo è 3009, Claudio. Questo è un po' troppo alta la potenza, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ti mangia completamente la modulazione. Adesso scalo, guarda così avete 200 watt. Prova dalla prima potenza, mettilo in prima, mentre stai parlando, poi ti dico dove ti devi fermare. Vediamo se le fa tutte, capito? Questa è la prima. Metti la seconda. Seconda. Metti la terza. Quasi. Dalla prima alla terza potresti andare bene. Fai quarta e quinta e sesta. Questa è quarta. Vai, vai. E quinta. E questa è sesta. Quinta e sesta ti mangia la radio. Prima, seconda, terza e quarta lo puoi usare. quindi così, così è 200 watt qua, no, 180. Va bene, orientativamente va bene, abbastanza comprensibile, anche se c'è un leggero, ma comprensibilissima, mentre quinta e sesta te la mangia completamente. Che preghiera. Che dia è quello? Cosa? Che dia è quello che sta sotto lui, Gianni? Il figlio di questo lo faccio io. L'MITER 505, mi pare 503, io ho l'MR Italy e l'EA 1000. Non lo conosco, quindi ti faccio cosa dire. E vabbè, sono allo stato solido, sono transistorizzati, il mio HF, il mio HF 030 e vabbè, è grosso come amplificatore, 700 watt quasi in AM e più di 1000 in SSB. Ah, adesso capito. Sì, come, come 550 modificato quello di Andrea Malicomio. Cade uguale, ma 700 e passa. Sì, vabbè, modificato il tuo a 4 finale a MOSFET, guarda, non è un gioco. Costa 600, quasi 700 euro costa sto veniere. Capito. Io quando ho modificato di Andrea, abbiamo tolto l'esempio quello originale, abbiamo messo gli altri, con il più grosso. Non ho fatto niente, l'esempio è rimasto quello che, cioè, il finale è rimasto quello che è, il 455, a 12 naturalmente, invece con il 102 potrebbe essere 24, se non ricordo male, il 422, quindi che manca il lineare che ho io. 4 finali, 422, giusto? Osso, guarda, lo so, manco come ha fatto l'altro, so che monta a 4 finali, sì, questo sta andando a 24 volts, c'è il suo alimentatore, c'ha 100 ampere a 24 volts, il suo alimentatore a parte, comprato con la con lineare. Quello che sia. E come avete quello che c'ho io qua a casa? Sono 4 finali, 422, sono 150 watt ogni finale. In più lavora anche in V e U, quel tipo di finale, grazie a Dio, quindi mi ha fatto, cioè, ci sono quelli con la 20, la 26 a 30 come circuito, cioè, invece poi c'è un altro circuito invece che fa la V e U, eccetera eccetera, monta lo stesso finale, cade uguale, manca solamente, cioè in pratica cambia solamente la circolazione del fatto vento. Poi i finali sono uguali, perché quei finali li montano, li attaccano V e U, lavorano così, grazie a Dio. Costa anche poco la vita, 32 euro mi sembra noioso, se non mi ricordo male, Sì, ma mai gli dici, sì, in montagna, sì, sì, in elicottero, sì, sì, in aereo, vai in salventola, che mi ammazzendi, già tu la senti. Solo a casa, non solo in montagna. Adesso si sente di meno. Si sente di meno, ma la modulazione non è bella. Guarda adesso, 1, 2, 3, sto vicino al microfono. Va un po' bene, un po' meglio, dai, già va bene. D'accordo, che da. Mi sembra c'è qualcuno che vuole entrare sotto da due passaggi avanti che vuole entrare. No, c'è sempre io, dai. Dai, vi saluto che vado a guardarmi un po' di TV. Dai, ci sentiamo, ragazzi, statevi bene. Ciao a tutti. Ciao Giara, anch'io adesso vado a mettere il pigiama che ancora non mi sono manco cambiato. Ci sentiamo dopo, Antone. Ciao Giara, alla prossima. Via, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Antonio. Non c'è rimasto più nessuno. Attento, pompetta! Sì, ci sei! Chiamando stavi, Antonio. Ecco, chiamando stavi. Cosa stavi dicendo, Antonio? Come stavi chiamando? Ecco. Pronto, pronto, pronto. Beh, tutti spariti. C'era Antonio poco fa, non so dove è andato. Io vabbè, mi sono fatto il caffè prima, tanto è decaffeinato, quindi non, male non fa. Ciao, stavano controllando una cosina al computer, mi sono perso un po' la, diciamo, il film delle nove, però pazienza. Comunque dicevo, quel linearetto adesso sta andando meglio di prima, dei primi giorni. Sembrerebbe che qua abbia tre Santiago di aumento, cioè passa da, che ne so, da Santiago 6 attenuato, per dire, no? Adesso attenuato a modo mio, no? Cioè tre Santiago da 6 di 5 watt liscio, Santiago 6 e Santiago 9 attaccato, tre Santiago. Credo che il rendimento sia quello corretto. Bisogna vedere bene con un watt metterò quanti watt da, non lo so. Il mio già l'hai visto, la prova l'abbiamo fatta, quindi. Allora lui ha letto col TM1000 de 300, però sai, io, almeno spesso gli ZG che avevo io erano un po' generosi. Bisogna provare con un Daiwa, tipo roba del genere, no? Così per togliersi la curiosità. E comunque vedi, il primo alimentatore, quello più grosso, gli sta dando un po' di problemi. Magari il problema originario era quello, che aumentava di un Santiago e mezzo, nemmeno due, lo sai. E ho detto, ma non è normale, dovrebbe dare di più. Comunque vabbè, meglio che sia risolto, dai. Pilotaggio sempre in basso, perché anche se lo puoi pilotare fino a 5, se ne vede 4, 3, anche 2, non satura, capito? No, ma da 300 watt, cosa? È uguale al B300P che ho io, era 220, 203, massimo 250, cosa? Non li dà 300 watt lui. Sì, in AM, allora in AM ho ottimizzato, proprio ottimizzata l'alimentazione, ottimizzato anche dentro, no? Bello tarato ad hoc. In AM 250, con 5 watt e mezzo di pilotaggio, l'ha fatto il famoso Francesco Pieretti, eccetera, misurato col wattmetro Daiwa, quello, il CN801, 901, adesso non mi ricordo. Naturalmente in banda laterale magari qualcosa ti dà, magari anche a 300 ci arriva in banda laterale smodulati, fischiando, che ne so io. E via, buono, va bene. Claro, io era acceso, io stacco definitivamente, tanto ero nell'altra camera. E poi ci sentiamo quando capita, ok? Ciao, buonanotte. Ciao Marco, io sono qua, sto guardando la TV, se entra qualcuno siamo pazienza. Ciao, buonanotte, arrivederci. Poi vabbè, ribadendo, attenuando completamente tutto qua, ribadisco, tu eri Santiago 8, lui era Santiago 6. Attenuando proprio tutto, e questo attenuatore è terribile, cioè ti porta segnali da 9,20 a 0, proprio, e quindi è notevole. Ok. Io me ne abbiamo fatto la prova, tutto l'FG chiuso, segnale da 3 a 8 l'incremento, quindi vabbè, i miei sono il doppio dei watt sui, quindi. Naturalmente è tutto attenuato, fai 6 soliti di 3 Santiago, mi scendi a 3, 2 Gianni, capito? 2, 3 di segnale a 6, quindi l'incremento c'è. Bene. Dai, sentiamo, buonanotte anche agli ascoltatori, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo.